Buongiorno Giacomo, sono felice di parlare con te in questa chiacchierata. Allora, sono epistemologa e teorica della conoscenza, come sai mi interesso di filosofie femministe e di gender studies. Fino a qualche anno fa non mi consideravo femminista, anche perché, lo sappiamo bene, vi sono troppi e tanti femministi, giusto che sia così. È difficile optare per l'uno o per l'altro, perlomeno attraverso il ragionamento, attraverso l'argomentazione. E comunque io amo il confronto e il dialogo. Sì, hai ragione. La prima considerazione che farei, fermo restante che sono molto felice di dialogare con te, ecco, la prima cosa che direi è che la pluralità interna al femminismo è un indice della sua forza, in qualche modo, per tutti i soggetti, no? La pluralizzazione interna è un segno anche di maggiore rilevanza. E lo è ancora di più quando dà luogo a divergenze o a conflitti. E quindi, appunto, quanto più un soggetto cresce di rilevanza, tanto più si moltiplicano, io penso, i suoi punti di vista. Ciò detto, i femminismi sono tanti e declinati nella maniera più diversa, insomma. Ora cito le straniere perché non si creano meno problemi. Una cosa è Donna Haraway e l'altra cosa è Luce Irigaray, no? Di Luce sono molto amico, ma è un personaggio. Di Luce Irigaray ho sempre ammirato. Anche se abbiamo iniziato la nostra amicizia litigando, poi siamo diventati grandi amici, eccetera. E lei è in qualche modo, Luce Irigaray, è una donna che è stata capace di cambiare nel corso del tempo. Lacaniana, però non è riducibile alla Lacan. Nietzsche è una che conosce benissimo Nietzsche, lo utilizza e declina al femminile, però non è una nicciana nel senso tradizionale, è un personaggio, è in grado di trasformarsi. Ora è un po' di anni che non la vedo, è 3 anni che non la vedo, ma è stata proprio qui in questa sede dove noi stiamo parlando, in Fondazione Basso, è stata ospite del mio corso all'Università di Roma 3, quindi cioè, le voglio molto bene ed è una donna straordinaria, ecco. Però ecco, lei per un verso e per l'altro verso Donna Haraway dicono cose agli Agli antichi, però Luce Irigaray ha avuto un pregio, a mio avviso, che le attribuisco anche da filosofa analitica, sì. che ha integrato la psicanalisi nelle filosofie femministe, Sì. cosa che prima le filosofie femministe non conoscevano. Invece adesso c'è tutto un filone di filosofie femministe che applicano, utilizzano più che applicare la psicanalisi al loro interno. Le filosofie, venendo invece alle filosofie femministe, io considero, le donne sono esseri umani, non passive, non sono irrazionali, era Aristotele che diceva che sono passive e irrazionali, Nietzsche diceva che sono gingilli, eccetera, no? I filosofi sono stati, alcuni si sono salvati, Cartesio si è salvato perché ha attribuito la mente anche alle donne e poi John Stuart Mill. Poi altri filosofi, insomma. Senti, no, insomma, Nietzsche era molto ambivalente su questa cosa per riprendere Nietzsche, nel senso che non dimentichiamo che in alcune lettere, se ben ricordo, quando deve definire lo Übermensch, perché Mensch ovviamente non è il maschio, l'uomo, è l'umano, no? Lo Übermensch, quello che io chiamo l'iperumano, non è neanche l'oltreuomo, è l'iperumano, no? Diciamo, Nietzsche a un certo punto dice: se dovessi dire dove sta lo Übermensch, è nelle donne più che nei loro, sono più avanti di me, sono più avanti di noi. E quindi vi è un aspetto sicuramente rilevante. Ciò detto, i filosofi, è noto, non sono mai stati particolarmente aperti alle donne, al loro modo di praticare il pensiero, perché c'è un pensiero femminile molto, no? E però, malgrado ciò, non dimentichiamo che la sapienza femminile di Otima è posta da Socrate, dal Socrate del Simposio, no? Alla base della filosofia. Ma al di là di questo, al di là che poi la filosofia, la vera filosofia non nasce con Taleto, con Parmenide, ma con Socrate, il metodo socratico. Allora, io dico sempre, la porre domande, la maieutica, è l'arte della levatrice. E tu pensa, appunto, sollecitare le domande, far nascere qualcosa, far nascere un pensiero, significa mettere al mondo il mondo, no? Mettere al certo. mondo il mondo, cioè. E poi il termine concetto, il concetto, è il concepire. Il concepire è far nascere, la concezione, il concetto ha a che fare con la nascita. E tutte quante sono come dire, dimensioni femminili della filosofia. Su questo ovviamente Socrate insisteva moltissimo, e l'aspetto socratico, però è l'aspetto che poi la filosofia, dal grande Aristotele in poi, ha schiacciato, tutto sommato. Sì, sì. E il dialogo socratico, non c'è mai aggressività, c'è sempre crescita nel dialogo socratico. Esatto. E questo dovrebbe essere mantenuto dalla filosofia, e insomma, e la cresce insieme. Certo. Donne e uomini, soprattutto essere persone umane. Assolutamente d'accordo, certo. Tornando al mio, un po', io sono giovane, vecchia giovane, comunque giovane. Forse oggi sono un po' una femminista intellettuale, non politica, perché la politica oggi, insomma, in quanto ritengo che le donne siano il nostro passato, un po' l'hai detto in modo molto bello, il nostro presente e il nostro futuro. Mente, acqua, terra, la nostra salvezza, la salvezza del pianeta. Si tratta di obiettivi, non solo di teorie, cioè ci deve essere la teoria che poi persegue degli obiettivi, una teoria a cui poi seguono le azioni senza la teoria, senza i concetti, sono ingiustificabili. Sì. Oggi mi sento, diciamo, di gareggiare per l'ecofemminismo, e dico di no a ogni tipo di abuso, e oggi purtroppo assistiamo a troppi abusi, a mio avviso. Guarda, è il problema che tocchi, secondo me, è un problema cruciale, intanto perché pone la questione della dimensione planetaria dei problemi, no? Planetaria. Viviamo in un mondo in cui o ci salviamo tutti insieme o l'Homo sapiens scomparirà, e non sarà un grave danno per il pianeta. Cioè, il problema è salvare noi stessi come genere umano, no? Ma il pianeta sopravvivrà benissimo senza di noi, senza questa. E ho pensato una cosa, lo dico da maschio questo, perché vi è un nesso intimo, purtroppo, tra abuso del mondo ambiente e abuso delle donne, assolutamente. Esattamente, funziona esattamente alla stessa maniera. Cioè, ed è una cosa che ogni tanto mi crea un dolore interno come maschio. Cioè, c'è un indelebile segno maschile androcentrico nella violenza estrattiva che la specie umana, ma noi maschi, abbiamo esercitato sulle materie prime, le risorse, le forme di vita animali e vegetali. È una cosa terribile. È una cosa che ogni volta che ci penso è la posizione del maschio da questo punto di vista è terribile, perché mi rendo conto che nella forma mentis maschile, nelle idee base che ci sono state trasmesse, malgrado, come dire, i tentativi delle nostre madri, la mia è stata una madre molto dolce e sensibile, mi diceva bisogna avere rispetto per gli altri, rispetto per le donne e tutto il resto, eccetera. Però nella forma mentis di noi maschi c'è qualcosa che non va. E allora io penso che quello che tu hai detto adesso, no? L'ecofemminismo, eccetera, e tu dici non c'entra con la politica, invece forse è la sola vera politica, perché spinge ad affidare alle donne le priorità di rilevanza e l'agenda dei governi. La politica intesa nel senso, la politica, diciamo, sì. Intesa in senso, perché alto, guarda che la non, politica nata, non la politica odierna. Il diciamo. Passo indispensabile è che la politica sia data in mano alle donne, che sia data in mano alle donne, cioè voi donne che o comunque a persone competenti. Donne certo, donne competenti che pensino al bene comune. Sì, ma che definiscano però la definizione di competenza che date voi donne è ben diversa dalla definizione di competenza che diamo noi maschi. Perché anche lì c'è una la traslazio in pe, c'è dietro il sapere maschile sempre il dispositivo della traslazio in pe, no? Basti pensare a quel terribile Dante, ho fatto una ho aperto un convegno internazionale su Dante e la politica. Devo dire, e alla fine ho detto che se dovessi salvare una cosa di Dante è quel bellissimo sintagma intelletto d'amore. Lì ha avuto una cosa geniale, intelletto d'amore. Sì. Avete le donne. Sì, le donne, sì, che, sì, donne sì. Che avete intelletto d'amore. Questo è. Per cui se rimane, anch'io considero che rimane preoccupante oggi, siamo nel 2021, il maschilismo, il machismo, sì. Ma soprattutto il patriarcato. Ci sto riflettendo da qualche anno, ma credo che viga ancora il patriarcato. Nel contempo credo nella libertà di scegliere. Però affinché ci sia data la libertà di scegliere, occorre la conoscenza. E torniamo, se vuoi, a Socrate, a Platone, a... gli esseri umani per natura debbono aspirare alla conoscenza, altrimenti non sono esseri umani. Se, quando non conosciamo, il ventaglio di opzioni, sia teoriche che sul piano delle azioni, si restringe perché non conosciamo. Sì. E uno dei problemi che oggi, per collegarmi al nostro dialogo e a quello che dicevi, che cos'è la maternità surrogata? Una libera scelta basata sulla conoscenza oppure l'apice o il quasi apice del patriarcato secondo te? Guarda, provo un po' a rispondere ai due temi che tu hai posto, no? Allora, sono due questioni molto, molto serie, molto... in prima il patriarcato, sì, prima ho detto una cosa che c'è una traslazio in peri, sembrerebbe il patriarcato, però dico sempre alle mie amiche femministe anche, delle diverse tendenze, le più disparate tendenze, attente alle insidie della fratriarchia. Perché il vero pericolo non è soltanto il maschio debole e violento che commette femminicidi, quello sì, certo, l'avete detto infinite volte voi ed è giusto, è la reazione alla crescente rilevanza della presenza femminile nella società, cioè rilevanza. O comunque sia la punizione che il maschio debole dà alla donna, no? Che in qualche modo è libera, autonoma, eccetera. Prima in Italia c'era il delitto d'onore, adesso insomma certo. Proseguiamo sì. Sull'onda. Sì. Così. Però quella che io chiamo la fratriarchia è il maschio fratello che dice di essere solidale, che dice di essere femminile. Io sono un maschio femminile. Questa non è, non, anche noi che cerchiamo mi ci metto anch'io, che cerchiamo di essere vicini a voi, no? E dobbiamo stare molto attenti, perché la fratriarchia è il vero rischio di... Nella fratriarchia si nasconde il vero rischio di riproduzione del potere maschile. Dal punto di vista di chi ha fatto anche filosofia politica, e Hobbes non è il primo grande teorico della politica moderna, in qualche modo, nel senso sistematico del termine, no? E non fonda un potere patriarcale, ma è la congiura dei fratelli che crea il Leviatano, la congiura dei fratelli. Hobbes è stato geniale. Maschi, però. Geniale, certo. La congiura dei fratelli maschi. Qui è il punto fondamentale. Oggi i fratelli maschi dicono: siamo fratelli e sorelle, in qualche modo noi siamo solidali con voi. Attenzione, quelli, si riproduce il potere maschile attraverso questa... Il maschio democratico è un inganno, come lo è spesso la democrazia. E questo è il dato. Poi tu dici un'altra cosa più specifica, la maternità surrogata. Su questo io non lo so, perché alcune donne dicono la maternità surrogata è una dimensione della scelta femminile. Non ti saprei dire, su questo punto tu tocchi un aspetto che io, come maschio fratello, non riuscirei assolutamente a dirimere. Questo è una cosa che dovete decidere tra voi donne, qual è la caratterizzazione della maternità surrogata. Diciamo che io, come donna, non ricorrerei mai alla maternità surrogata. Neanche come uomo ricorderà. Sì, non lo so, può essere però una scelta anche libera, una scelta vera o no? Se c'è una conoscenza sufficiente. Sì, no, hai ragione. Il problema è sempre la conoscenza, non lo so. E sapere o non sapere, comunque, sì. l'ultima preoccupazione. Preoccupazioni in questi tempi, l'attuale dittatura tecnologica, che durante l'epoca Covid l'abbiamo, sì. Cioè, se prima lo sapevamo, adesso sì. Lo sappiamo, cioè, molto molto bene. Giusto, sì. E credo che, io credo e spero, perlomeno mi auguro, che ci siano donne e uomini intelligenti che lottino contro di esse per salvare loro stessi, cioè noi stessi in quanto esseri umani, che siamo animali, e torniamo in qualche modo poi all'idea della libertà di porci contro la dittatura, e perché le dittature, lo sappiamo, non da questa epoca tecnologica, certo. Da sempre le dittature favoriscono l'ignoranza, certo. E bruciano i libri. Certo. No, ti rispondo con un doppio movimento, diciamo, anzi una falsche bewegung, un falso movimento, ma la tecnologia, se non diventa tecnocrazia, io con Walter Benjamin, Walter Benjamin che io leggo in modo non molto dissimile da come lo legge anche il mio vecchio amico Giorgio Agamben, insomma abbiamo una valutazione simile, mi pare, e può essere una chiave della felicità la tecnica. Sì. E quindi, e poi non dimentichiamo che noi siamo tutti animali naturalmente artificiali. La prima tecnica è il linguaggio. La prima tecnica con cui noi ci siamo, il primo artificio che abbiamo costruito è il linguaggio, che noi maschi abbiamo codificato in termini di dominazione. Le prime istituzioni sono istituzioni linguistiche. Il mio amico Roberto Esposito, che fa un libro sulle istituzioni, e non dice che le prime istituzioni sono istituzioni linguistiche, grammatica e sintassi, sono assolutamente linguistiche. Potere di nominazione, e quello è il potere. Però le donne hanno saputo usare molto bene la lingua. della poesia. Stavi dicendo? Beh, Saffo, ma non solo Saffo. Saffo, stavo, beh, stavo pensando che hai citato Saffo è la semantica. Vorrei sarei interessata a capire se qualche linguista ha cercato di capire la semantica dal punto di vista maschile e femminile, se c'è una differenza, perché la sintassi e la grammatica sono quelle. Sì. Invece non so della semantica. La semantica varia, secondo me. La semantica varia, ma tu hai perfettamente ragione, proprio nella tu pensa come vengono adoperate i nomi, e quindi la semantica dei nomi nei diari femminili. Guarda, a volte i conservatori vanno più avanti dei cosiddetti rivoluzionari. Abbiamo dovuto aspettare per un'analisi sociologica seria dei diari femminili, non Habermas, ma Niklas Luhmann, teorico dei sistemi, che a un certo punto, che io conoscevo molto bene, è stato varie volte ospite a casa mia, eccetera, e mi porta un libro un giorno, Liebe als Passion, amore come passione, tutto sui diari femminili. Cioè, geniale idea, vado a vedere cosa è accaduto nella codificazione dell'intimità, perché noi abbiamo parlato della codificazione dei governi, della politica, ma la codificazione dell'intimità è lì. E lì chi ha gestito la codificazione dell'intimità sono state le donne, poi le grandi scrittrici. Penso ai diari di Virginia Woolf, appunto, Virginia Woolf. Sì, appunto. Le poesie, i quaderni di pensieri delle donne sono una miniera, è la cosa. Limite di Nietzsche, che pure aveva questa uscita per cui le donne sono quelle più legate all'iperumano, allo Übermensch, eccetera, però poi avesse mai preso in mano un diario femminile o... Diario, però a Nietzsche aveva avuto un problema con una grande donna, no? Sì, ma certo, la grande donna aveva attraversato gli uomini, lui invece era stato irretito da lei, appunto. L'errore è stato mio. L'attuale dittatura digitale. Ah, sì. Mi riferivo a quello che c'è la privacy. Guarda, in questa stanza abbiamo fatto infinite discussioni con mio fraterno amico, diciamo fratello maggiore per me, è stato Stefano Rodotà, a cui ho voluto un immenso bene, un grande amico del cuore, amico anche tuo, no? Stefano all'inizio ha avuto una grande fiducia nel digitale, no? Tu pensa a un libro come Tecnopolitica e dal 1979 che con Stefano lavoriamo sul digitale. E davanti però alla euforia di alcuni filosofi maschi riguardo al digitale, alcuni nomi li conosciamo e quindi è inutile farli, euforia. È meglio non farlo. Io direi che oggi ho la sensazione che Stefano condividerebbe con me la battaglia per il diritto di sconnettersi. Io non voglio avere il diritto di essere connesso, voglio il diritto della sconnessione. È stato il garante della privacy, a seconda di come lo vuoi pronunciare, ma ti lascio con una... Sì. Io l'ho visto, siamo rimasti in contatto con Stefano pochi giorni prima che morisse. Comunque sul digitale ricordo che computer e cellulari lui telefonava alla nipote per sapere come riuscire a... erano oggetti più o meno sconosciuti. Certo. Grazie di cuore.